Vorrei dire che possiamo iniziare, do sempre il benvenuto qua in biblioteca al nostro pubblico, ai nostri ospiti e ci piace molto, anche se l'ambiente è un po' piccolino, ma ci piace tantissimo organizzare qua, tra questi scaffali, perché ci sembra più intimo, più accogliente. Senz'altro più intimo. Sì. Sì, poi in mezzo a tante belle signore, l'intimità. Si ingentilisce sempre un po', no? Però devo dire che saremo tutti affascinati stasera dal racconto del nostro ospite, perché mi ha già affascinato. Dipende dalle domande che mi faranno. Ma prima vogliamo sentire da lei e anche da Alessandra Spada, che ringrazio, e da Sabine Mai, che ringrazio davvero, perché ci accompagnano in tante occasioni alla scoperta e alla riscoperta della nostra storia, di una storia universale, ma anche di una storia con legami forti sul nostro territorio. Che dire, la biblioteca è da sempre attiva, tutte le settimane in più di un'occasione, anzi in più giornate organizziamo degli incontri e vi invitiamo, chi non fosse iscritto, ad iscriversi, è tutto gratuito, ma almeno così rimane aggiornato rispetto a quelle che sono le nostre attività e le occasioni di incontro, ma soprattutto le occasioni di confronto e di dialogo, di aprire un dialogo vivo con le persone che condividono delle memorie, condividono dei pensieri e condividono appunto anche dei libri. Allora, questa sera, come abbiamo appunto già avuto occasione, sarà veramente interessante sentire dalla voce di Attilio Zammarchi la presentazione del suo libro Il Bazar Milanese, tra Romagna e Bolzano, è una storia di famiglia. Ce ne sono tante di storie, ecco. La cosa che abbiamo capito è che ognuna ha qualcosa in comune, ma è sempre diversa, un po' come il nostro DNA, va bene? Cioè il DNA umano è una cosa, ma è sempre completamente diverso rispetto a tutti gli altri. Quindi anche questa volta Attilio Zammarchi ci disvela una storia particolare e saprà anche emozionarci, ma soprattutto coprire un tassello di quella che è la storia universale che noi consideriamo. Bolzanina. Ecco, quindi, ma la storia bolzanina non è da sottovalutare, perché implicata pesantemente. Io sono nato in via Museo numero 6, più bolzanino di me non c'è nessuno, ecco, a fianco del torto. Vedo che i motori si sono già scaldati, quindi io vi lascio subito in compagnia dei nostri ospiti. Vi ricordo che martedì prossimo alle 17.30 avremo la presentazione di un libro, L'Europa fascista, dal primato italiano all'asservimento del Reich. Saranno con noi Monica Fioravanzo, docente dell'Università di Padova, e Francesca Califano in qualità di moderatrice. Mentre il 29 alle ore 18, quindi mercoledì prossimo, ci sarà il gruppo di lettura dedicato alla poesia, ospite Cristina Matà con la sua antologia Der innere Kreis, il cerchio interiore, con le letture di Verena Lazzari, di Maria Pia Zanetti e anche la moderazione di Renato Sklaunic. Questo è uno spot che faccio sempre. Chiudo, vi lascio in compagnia dei nostri ospiti, vi ringrazio tantissimo e vi invito a tornare in biblioteca. Vediamo che... E noi l'applaudiamo per la presentazione. Grazie. Un saluto affettuoso a tutti voi da Grazia Barbiero, che era prevista con la sua presenza e la sua sapienza questa sera, purtroppo non può esserci. Le ho promesso che domani mattina scarichiamo subito la registrazione della serata, così la puoi ascoltare. Sì. Bello. Bene, grazie e buona serata a tutti. Grazie Valeria. Mi si sente la voce? Sì, prendo io la parola. E poi la passo subito all'autore del libro, perché è un gran narratore da tutti i punti di vista. Volevo anch'io solo aggiungere, proprio in ricordo di Grazia Barbiero, che mi ha scritto stamattina, purtroppo Grazia attualmente si trova all'ospedale, non è con tanto, veramente tanto dolore, non può essere qui, e comunque mi ha detto, lo leggo perché ci teneva, e dice che ha trovato il testo più che interessante, racconto di Attilio Zammarchi, a cui tesso le mie lodi da lontano. Grazie. Io le rincasso volentieri. L'autore non sbaglia un colpo, dall'analisi della sua famiglia a quella delle persone che incontra in un fecondo racconto e confronto intergenerazionale, storia piccola e storia grande si arricchiscono vicendevolmente. Queste sono le parole di Grazia che ci bellissime, tenevo. Bellissime, poi... me le registrerò. Cioè, poi le giro. Dopo me le spedisci. Le giro, sì. Va bene, grazie. Giro. Bene, io faccio una breve, brevissima introduzione perché a me è stato chiesto da Sabine Meyer, che in qualche modo lei l'organizzatrice di questo evento oggi, di partecipare a questo evento. Io ho letto il libro e devo dire che proprio sono quei libri che si leggono in un attimo, veramente coinvolgente, interessante, poi per chi vive e è cresciuto in questa terra è veramente ricco di spunti e ricco di interesse. Posso solo chiederti, certo, scusa, però effettivamente certo, il microfono serve per farsi sentire. Va bene. Ed è un libro, innanzitutto devo dire, va letto perché è una storia bella, e va detto, le storie sono belle, ma va anche detto, perché è un piacere leggerlo. Poi è stato detto la storia di una famiglia, di tre generazioni della famiglia Zammarchi, una famiglia che è arrivata in Alto Adige negli anni 20, quindi durante la prima fase del fascismo, almeno i primi esponenti della famiglia, è venuto appunto come esponenti di famiglie umili, i nonni erano contadini, no? Poi lo racconterà meglio lui, e si trasferiscono in Alto Adige e grazie al duro lavoro diventano una famiglia benestante, molto benestante, quindi è la storia di un riscatto sociale da questo punto di vista, e quindi è una saga familiare che insomma è sempre piacevole e bello leggere. Però questo libro ha anche uno spaccato della vita quotidiana di Bolzano tra la seconda metà degli anni 20 fino a più o meno a metà degli anni 50 del secolo scorso, e quindi fa un focus proprio sulla storia di Bolzano e anche sulla storia sociale, la storia quotidiana, cioè anche il commercio, la vita dei giovani, la scuola, i divertimenti. E poi la cosa che a me ha colpito, forse anche per ignoranza mia, ma quando noi si pensa agli italiani che sono arrivati a Bolzano durante il fascismo e dopo, un po' la storia ricostruisce sempre la Bolzano dopo il Ponte Talvara dal punto di vista architettonico, la Bolzano fascista, la classe sociale ricca fascista che è venuta naturalmente intorno al Monumento alla Vittoria, al Corpo d'Armata, e poi la zona industriale, gli operai, le semirurali. Diciamo un po' la Bolzano italiana è sempre associata un po' a quella storia. E invece qui scopriamo la storia degli italiani venuti a Bolzano in quegli anni del centro di Bolzano. Quindi una storia in quello che era il mondo tedesco, e quindi anche questa relazione con quest'altro mondo, e anche questo per me è stata un po' una novità e da questo punto di vista è molto interessante. Poi ovviamente è una storia di valori, è una famiglia ricca di valori, una famiglia radicata nei valori di tradizione socialista che li ha poi sempre guidati nelle scelte politiche, ed è una storia anche di solidarietà umana, in momenti storici assai difficili, solidarietà con le famiglie ebree perseguitate, e qui poi la parola la prenderà poi anche Sabine, che si è molto occupata di questo argomento, e anche una solidarietà umana per diciamo, i deportati italiani, partigiani, verso la Germania. E anche qui la famiglia Zammarchi ha avuto un ruolo importante proprio per aiutare nella fuga questo tipo di perseguitati, sia gli ebrei che i deportati verso la Germania, non dico altro perché poi veramente lascio la parola al nostro narratore. E poi ci riporta anche una storia politica di Bolzano, ma che questa è una storia meno nota, come la nascita del Partito Comunista. Ci sono delle storie molto divertenti, come un figlio Zammarchi piccolo viene mandato nelle zone operaie a portare volantini nel 48 per le prime elezioni in provincia di Bolzano. Possiamo immaginare che il Partito Comunista era proprio all'inizio e come poi il loro negozio, il Bazar Milanese, che poi appunto è il titolo del libro, diventa in qualche modo la sede di un partito, comunque di gruppi di sinistra. Non c'era una sede allora, non c'era nulla, e anche questo mi sembra una storia molto molto interessante. E poi io non, ovviamente, essendo, come molti di voi sanno, la presidente del Frauenarchiv, dell'archivio storico delle donne, non posso non raccontare una storia di figure femminili, una storia di figure femminili straordinarie. La nonna Maria, che ha anche il ruolo di narratrice, perché Tito Zammarchi ci dice all'inizio la storia, lui l'ha presa, almeno quella passata, grazie alla nonna Maria, con cui è stato seduto ora, e poi la nonna Minghina, la mamma Marcella, fino alla storia della moglie Marilena, che è qui anche oggi, è la moglie Marilena che poi in qualche modo ce l'ha portato via da Bolzano, bisogna dire. No? Ecco, questa è un po' la storia di queste tante storie riunite in questo racconto molto, molto carino, molto bello direi. Ecco, io forse darei adesso la parola al signor Attilio, magari chiedendo di raccontare un po' l'inizio, come siete arrivati a Bolzano, sì, come sono finito, e poi un gran narratore, poi intanto la blocchiamo perché dobbiamo fare delle domande, no? Quindi le do il microfono. Veramente dovrebbe essere no, Sabina. No, Sabine, io faccio no, perché volevo per le brevi. Sabine sta in seconda fila, ma è lei l'artefice esatto. di questo incontro. Ma allora, cominciamo subito con semplicità. La fotografia che voi vedete, questa della mia famiglia, risale al 1941. Questo qua giù sono io che avevo 4 anni. E l'abbiamo fatta da Waldmüller in via Museo, che era il fotografo ufficiale di Bolzano. E quindi era lo studio Waldmüller, si trovava in via Museo. Qui praticamente c'è mio padre, mia madre, mio fratello più grande che adesso non c'è più, la mia sorellina che era più piccola di me, che è ancora vivente anche se molto malata, ma a Torino, e ci sono io che quest'anno compio 87 anni perché sono nato nel 1938. E la famiglia, dunque, il primo che venne a Bolzano fu mio nonno, il padre di mia mamma, con la famiglia, perché era un perseguitato politico del fascismo, in quanto aveva combattuto contro le camicie nere, proprio a pistolettate e a schioppettate, finché poi quei socialisti hanno dovuto soccombere nel paese di origine, che è un paese dell'Appennino tosco-romagnolo, e quindi si era messo a fare il mercante, nei mercati vendeva caramelle, zucchero, vendeva dolciumi. Mio nonno venne nel 25 e mia mamma, che qui era ancora una ragazzina che lo aiutava. Poi mio padre, tutta la storia di mio padre è diversa, anche se a sua volta il padre, l'altro nonno, era romagnolo anche lui, veniva da Roncofreddo, faceva il ferroviere, però abitava e lavorava a Milano. E mio padre è nato a Milano nel 1908. Mio padre, cui è ritratto nel libro, è presente molto, anche perché era un po' uno scavezzacollo, un personaggio insomma molto simpatico, ma molto affascinante per certi aspetti, conosce al mercato in Piazza della Vittoria, dove si teneva il mercato un tempo, conosce questa ragazza giovane che aveva 16 anni che diventò mia madre, e nel 31 si sono sposati. Sono sposati, nacque mio fratello nel 32, poi una sorellina che morì a 40 giorni di una difterite, e poi nel 38 sono nato io, nel 39 alla fine, il 31 dicembre è nata Franca, e quindi si è formata tutta la famiglia che vedete sul libro nella copertina. Naturalmente i miei ricordi risalgono a quando avevo questi 3-4 anni in poi, e tra i vari ricordi potrei dirvi che io avevo il problema che a 5 anni mi sono ammalato. Il dottore era il dottor Mumelter, non so se qualcuno se lo ricorda, che aveva lo studio qui in Piazza della Mostra, al primo piano, sopra quell'attuale ristorante che c'è. Io naturalmente sono nato in via Museo numero 6, sopra la pasticceria Hofer, che era una pasticceria di stampo austriaco bellissima, che è riprodotta anche nel libro perché è un ricordo fondamentale. E di conseguenza cosa succede? Che nel 43 io ero ammalato, avevo 5 anni, ero ammalato di una forma di paralisi alle gambe, e tutta la famiglia, perché erano già iniziati i bombardamenti, ricordo benissimo il suono delle sirene e poi mio padre che mi avvolgeva in una coperta e correvamo nel rifugio in Santo Osvaldo perché abitavamo in via dei Carrettai numero 10 che adesso si chiama Dottor Streiter, mi pare, qualcosa del genere. Era la zona, sì, operaia di una volta, perché tutti via Bottai, via Conciappelli, via, erano tutte le zone, era una zona così. Noi abitavamo in via dei Carrettai numero 10 e in quel periodo, parliamo storicamente della fine del 42 fino all'estate del 43, mio padre aveva organizzato insieme a suo suocero, a mio nonno, di abbandonare Bolzano perché era troppo pericolosa, le bombe dappertutto cominciavano a fioccare, perché l'obiettivo era la ferrovia, la strada che da Verona portava al Brennero, e qui a Bolzano c'erano delle contraeree nel Talvera che poi io ho visto dopo la guerra, perché c'erano ancora i cannoni rimasti del periodo bellico, e poi da Castel Firmiano. Però prima, 10 minuti prima che arrivassero gli aerei, si cominciava a sentire le sirene, avevano un suono proprio che non te lo dimentico. Dopodiché siamo andati praticamente in Romagna, però siamo andati io per ultimo, perché il dottor Mumelter mi voleva guarire, mi voleva curare ad ogni costo. E per mia madre il dottor Mumelter era un santo, quindi la sua parola era legge, e siamo rimasti mio padre, mia madre e io a Bolzano, mentre il resto della famiglia, con il nonno, con tutti quanti, venduto tutte le nostre proprietà, si erano trasferiti nell'Appennino romagnolo a Galeata, in un paese dove avevano comprato case, poderi e via dicendo, per investire quello che avevano, il loro patrimonio. Io rimasi a Bolzano per 3-4 mesi finché il dottor Mumelter riuscì a curarmi e a guarirmi. Dopodiché diede l'ok per la partenza, e quindi anche mio padre, mia madre e io siamo partiti e siamo andati a Galeata, dove abbiamo vissuto dall'estate del 43 fino all'estate del 46, 3 anni. Mio padre, tra l'altro, era diventato un comandante partigiano, tanto per così come fatto di cronaca, tra i suoi sottoposti aveva Luciano Lama, che aveva 22 anni e che era uno renitente alla chiamata della Repubblica di Salò, perché molti giovani che venivano chiamati si nascondevano, cercavano di non andare. E quindi lui, da gambettola, si era portato sugli Appennini e aveva incontrato il gruppo di partigiani di cui mio padre era vicecomandante. Arriva nel 46, nell'estate del 46, una lettera da Bolzano, che era della proprietaria dei locali del Bazar Milanese, che è ancora lì, in Piazza Erbe numero 8, adesso c'è un negozio di moda al posto nostro, insomma, e che scriveva che avrebbe tenuto a nostra disposizione l'ambiente se intendevamo ritornare a Bolzano. E quindi la lettera fece questo effetto, che praticamente in 15 giorni si decise di tornare a Bolzano, sia mio padre, mia madre, la nostra famiglia, poi c'era, oltre a me, c'era Vittorio, la Franca, e mio nonno con la nonna e con 2 figli. Quindi in un camion abbiamo fatto un viaggio avventuroso che è descritto nel libro, perché è curioso, interessante. Quando ancora non c'erano i ponti, sul Po c'era il ponte di barche, perché parliamo del 1946. E quindi io riprendo il contatto con questa città, che è la mia città, dopo quell'intervallo bellico, e avevo 8 anni. Dovevo fare la terza elementare, anche se durante la guerra non avevo fatto né la prima né la seconda. Ma ci avevano messo tutti i ragazzi per vedere se sapevano qualcosa. A me chiesero di scrivere alla lavagna mamma. io seppi scrivere mamma, dice 8 anni in terza. E la terza, quindi la terza elementare l'ho fatta alle scuole marcelline, perché era l'unica scuola aperta, perché le altre che erano in via Regina Elena, quelle, insomma tutte le scuole del centro, erano o bombardate completamente oppure danneggiate. E quindi immaginate un bambino di 8 anni che partiva da via dei Carettai con la sua borsetta, con la sorellina più piccola che faceva la prima elementare, e si faceva tutta la piazza Erbe, via Museo, il ponte Talvera, con dei freddi terribili perché da Sarentino arrivavano giù delle folate di vento incredibile, e arrivavamo dalle suore che erano quasi a Gries, lì vicino a via Fago. E lì trovavamo le suore che naturalmente ci accoglievano con un bicchiere di latte caldo, e ho fatto la terza elementare. Poi la quarta e la quinta, e qui c'è un testimone oculare che non sapevo, a Puzzo, mio collega che è arrivato oggi, in quinta, e poi ho fatto anche le tre medie. A quel punto, arrivato all'età di 13 anni, avrei dovuto continuare gli studi, salta fuori la vena di mio padre, che era un po' un amante della campagna, e nel frattempo avevamo comperato quei poderi lassù in montagna che sono diventati poi tutti i boschi della Forestane. Mi hanno mandato a studiare a Cesena, alla scuola agraria. Quindi io nel 52 sono trasferito da Bolzano a Cesena, praticamente 8 mesi all'anno. 8 mesi all'anno, e a me sembrava di essere andato in Africa, perché mentre qui a Bolzano tutto era in ordine, non si calpestavano le aiuole, non si gettava un pezzo di carta per terra, insomma avevamo avuto questa educazione molto rispettosa, lì era una roba che non vi dico. Quindi lì ho fatto 5 anni, però non vedevo l'ora, le vacanze di Natale e poi soprattutto le vacanze estive che duravano 4 mesi, di tornarmene a Bolzano, ed ho quindi continuato fino al 58 a frequentare questa città. Ed è la mia città, non solo, la sento come la mia patria, la mia Heimat, perché in effetti è qui che mi sono formato. Detto ciò, poi la Romagna mi ha rapito, perché ho trovato una ragazza che adesso è qua, abbiamo già festeggiato i 60 anni di matrimonio, per cui non aspettatevi chissà quale capolavoro, però li porta ancora bene, adesso si nasconde perché si vergogna che io l'abbia citata. Detto ciò, quindi sono rimasto in Romagna, ho continuato l'attività nelle aziende agricole, poi ho fatto altre attività connesse all'agricoltura, nel settore dei trasporti, ero diventato un boss in quel settore, finché un giorno, per caso, a causa di un mio nipote, che qui non c'è, che è morto l'altro anno, che era di Bolzano e si trovava in vacanza da me in campagna, dopo a fine mese, lui era appassionato di corse dei cavalli a Cesena, perché l'azienda è a 3 km da Cesena, c'è l'ippodromo, e mi diceva: zio, portami a vedere le corse. E dico: va bene, una sera andiamo, una sera andiamo. Insomma, mancava 2 giorni alla partenza, il venerdì, dico: dai, stasera andiamo. E lì ho avuto l'incontro fatale della mia vita, perché nella tribuna dove si guardava lo spettacolo, così, un matto, un tizio matto, aveva organizzato una mostra di pittura, e quindi nelle varie colonne c'erano dei quadri appesi. Vedo un quadro, paf, e rimango fulminato come sulla via di Damasco, e praticamente mi interesso, e dopo 2 giorni compro questo quadro, e addirittura ne compro un secondo, 2 di questo autore che non conoscevo, non sapevo niente, di pittura non me ne intendevo minimamente. E anche una grossa cifra, perché con quell'equivalente di quei 2 quadri si comprava un mini appartamento a Cesenatico, e fu quindi anche una spesa un po' pazzesca. Qui mia moglie ebbe la pazienza di guardare senza litigare perché capiva che io avevo fatto questa cosa per passione. Dopodiché quello è diventato il mio primo lavoro. Ho aperto una galleria a Forlì dopo 3-4 anni, avevo la galleria a Milano Marittima d'estate e lì ho conosciuto collezionisti importanti di Bologna, di Milano, di Busto Arsizio, eccetera. E per 30 anni ho fatto il gallerista, con anche un certo successo, anche finanziario oltretutto, e poi dopo, negli anni 2004-2005, rientrato in Romagna, tenete conto, no, in Romagna, sì, in Romagna, nella mia azienda agricola ho costruito un agriturismo e siamo lì, e stiamo lì. Questa è la mia storia. Benissimo, grazie, Approfondire grazie. adesso. Ok, esatto. Il libro comunque contiene tutte le informazioni se uno è curioso. Sì, raccontate in modo anche molto Prego, Sabina, bene, in entriamo un po' modo adesso molto nel bello. merito, no, Sì, grazie. Grazie della adesso per Bolzano, questo racconto veloce. Adesso andiamo ad approfondire un po'. Prima di tutto io direi di vediamo l'atteggiamento antifascista del papà. A Bolzano ancora. Allora, Attilio, ci puoi raccontare per sì, favore? ma è Grazie. molto semplice. Dunque, mio nonno, quindi la famiglia materna, erano antifascisti al punto che erano tre fratelli a Galeata nel 22, attendevano i camion delle camicie nere che salivano al paese perché facevano paese per appioppare alla gente il pidocchio. Il pidocchio era lo stemma fascista e chi si rifiutava prendeva legnate. Quando arrivavano a Galeata c'è una salita che si chiama la salita della Fonte Nuova e mio nonno, i suoi due fratelli e altri 5-6 socialisti e anarchici li aspettavano con le carabine. Quindi i camion erano costretti a fermarsi e quindi facevano proprio una battaglia vera e propria. Dopo 2 o 3 volte di questo tipo, i fascisti si organizzarono e arrivarono sia da est che da ovest e praticamente mio nonno si trovò con i suoi fratelli isolato, tanto che uno dei fratelli dovette fuggire e venne accompagnato alla stazione ferroviaria di Forlì dagli altri due per timore che lo ammazzassero durante la strada. E poi è andato a finire in Argentina e ha abbandonato l'Italia, ha dovuto abbandonarla. Mio nonno invece si era ritirato nel podere dei genitori e poi quando ha iniziato nel 25 a fare 24 il commerciante, piccolo commerciante con un banchetto dove vendeva le caramelle, i torroni, eccetera. A un certo punto però anche lì subiva sempre delle angherie, non gli davano i permessi, questo, insomma mio nonno era un tipo tosto, parte e viene a Bolzano perché mio nonno era analfabeta, aveva imparato a scrivere nel 1907 quando faceva il soldato nella prima guerra di Libia. E dalla Libia mandò la prima lettera a casa, tutta sgrammaticata, ma comunque molto interessante. Poi non solo nel 1907, lo richiamarono anche per la seconda guerra di Libia del 1911. Quindi pensate, poi nel 15-18 ha fatto la guerra, mondiale e ha ottenuto anche una medaglia perché insieme ad altri quattro di notte hanno conquistato un piccolo fortino austriaco con 50 soldati e loro erano in cinque, li hanno praticamente imprigionati, dormivano, erano nelle camerate, insomma li hanno fatti prigionieri. Detto questo, mio nonno quindi era un tipo tosto, decide di spostarsi e dove va? Viene in Alto Adige perché conosceva un po' di tedesco in quanto da giovane andava a fare il bracciante agricolo in Svizzera. Parliamo di tempi di grande povertà, di grande miseria, e nel cantiere tedesco, e quindi aveva imparato un po' di parole. Quindi viene a Bolzano e si stabilisce in via Museo numero 6. Se andate a vedere, è una casetta gialla che adesso l'hanno restaurata, bella, E lì in quella casa sono nato io, perché quando mia mamma, che era nel negozio, aveva le doglie, corri a casa della mamma e del babbo, che i miei nonni, e lì sono nato con una levatrice tedesca che era diventata amica di famiglia, che aveva fatto nascere tutti i figli della famiglia. Per cui mio nonno continua il suo mercato, migliora, insomma fa dei piccoli progressi, ma nel frattempo mia madre e mio padre, che era a sua volta un venditore ambulante, quasi un vucumprà, perché andava a prendere la merce in prestito da un ebreo che stava in via Argentieri all'inizio, che si chiamava Corami, mi pare, o Curami o Corami, che poi io ho conosciuto quando ero un ragazzo, perché una volta mio padre mi portò a salutarlo, e dopo mio padre non aveva più bisogno di lui, ma all'inizio venne aiutato molto. E poi dopo si è conosciuto mia mamma, si sono sposati e hanno messo su il banco insieme. Nel libro c'è anche la fotografia del banco nella passeggiata del Talvera, perché si vede che il mercato lo facevano anche lì all'epoca, parliamo degli anni 30. Dopodiché mia madre, che era una intelligenza notevole e anche una donna, io dico una donna romagnola, adesso senza offesa per nessuno, io penso che la donna romagnola sia un po' la sintesi della donna italica, e poi vi potrò anche spiegare il perché, la penso così. Detto ciò, mia madre mise ordine nella vita di mio padre, che fino allora era stato un po' uno scavezzacollo. Abitava qui al Cavallino Bianco, aveva una camera in affitto quando non era sposato. Dopodiché sono andati in Vicolo delle Erbe, quel vicoletto che da via Leonardo da Vinci arriva in via Museo, quel vicoletto, quello, allora c'era il mercato delle erbe. Detto ciò, lì hanno formato la famiglia e mia madre convince mio padre a aprire un negozio. Basta con la vita ambulante, con prendere il freddo e via dicendo. E il sole d'estate, tutte le volte monta il banco, smonta e via dicendo. Cosa che io ho fatto con mio nonno quando ero un ragazzino, quindi conosco anche quel tipo di lavoro. E aprono in via dei Carrettai un magazzino. Siccome mio padre era milanese, conosceva l'ambiente milanese, e si mettono a fare il commercio all'ingrosso, cioè servivano i loro ex colleghi del mercato. Adesso, scusa, Attilio, dobbiamo accorciarmi un po'. Ecco, bene, sì, finisco in un attimo. Sì. E quindi lì è nato il Bazar Milanese, poi si è spostato nel 39 in Piazza delle Erbe ed è stato lì per 40 anni. Ed è stato lì per 40 anni, si sono trasferiti lì, tra l'altro nel libro c'è anche la foto, però noi, adesso è tutto bello, è un monumento il palazzo, noi avevamo i banchi di frutta davanti, di qua e di là, e c'era soltanto l'ingresso centrale, basta. Grazie. E l'attività? Antifascista, l'attività del papà, che cosa ha fatto? Sì. Adesso andiamo già negli anni 40. Allora, sì, il nonno paterno, che era il nonno paterno, che era un romagnolo ferroviere, lavorava per la Wagonlitz ed era di stanza a Milano, a Porta Garibaldi. E praticamente era un socialista, perché i romagnoli erano socialisti, il movimento socialista era nato nell'ambiente contadino alla fine dell'Ottocento per vedere di emancipare, eccetera. E lui era un socialista al punto che nel 33-34 subisce una condanna dal Tribunale Speciale Fascista per 5 anni di confino. Poi viene tramutata in 5 anni di obbligo di firma. Per cui ogni giorno, dovunque si trovasse, doveva andare a firmare il registro alla polizia, ai carabinieri, eccetera, perché sapevano dov'era, perché quindi lo consideravano pericoloso. Mio padre era nato con quello spirito, e quando da giovane sulla Ventina lavorava in una torneria, era un tornitore, aveva imparato il mestiere, viene il momento che tutti gli operai devono iscriversi al partito fascista, altrimenti vengono licenziati. Mio padre si rifiuta e viene licenziato, e da quel momento si mette in società con un anarchico che a sua volta era antifascista, che faceva lo straccivendolo, raccoglieva gli stracci nelle fabbriche, poi li mandava giù a Prato, e dove venivano riciclati e via di... Adesso chi non conosce questo commercio dirà: ma cosa sta raccontando? Comunque era così. Poi dal fatto di vendere gli stracci passano a vendere la stoffa e cominciano a fare i mercati a Brescia, a Verona. A Verona incontrano un rappresentante di commercio che dice: il posto buono dove si può lavorare e guadagnare è l'Alto Adige. Al che loro, che avevano il camioncino, partono e vanno e vengono in Alto Adige. Arrivano qua senza sapere una parola di tedesco e praticamente, è tutto raccontato, aprono un commercio ambulante di stoffa con un grande successo. Poi dopo è arrivata la guerra e il resto... questo è molto importante. No, il fatto che mio padre, ecco, Sabine mi richiama a ricordare l'aspetto, diciamo, antifascista organizzato. Mio padre era iscritto al Partito Comunista, diciamo, che era clandestino, in una cellula di 5 persone. Si chiamava cellula perché più di 5 non potevano essere, perché se uno veniva arrestato e torturato, più di 4 nomi non avrebbe potuto fare. Questa era la regola. La tessera di quella storia lì è al museo a Torino. Scusate, ma mi commuovo. No. E quindi mio padre era comunista, mia madre invece era socialista, perché la famiglia era socialista. Dopo la guerra mia madre si dichiarava nenniana, ma il Bazar Milanese dopo la guerra era diventato il sostituto della Federazione Comunista Bolzano, si trovavano lì, e lì arrivavano persone anche che abbiamo conosciuto, non so, Siena, quello che ha fondato il museo qua, veniva Mascagni, il figlio di Mascagni che dirigeva la fabbrica di pianoforti, veniva il pretore di Bressanone che è diventato presidente del tribunale a Bolzano, presidente a Bologna e poi presidente a Roma con Craxi al tempo del tempo. Erano tutta gente di famiglia, andavamo a fare le vacanze con i loro figli, eccetera, così. E uno dei più che si era affezionato a noi, mia madre era la direttrice, presidente dell'UDI, Unione Donne Italiane, quindi era anche contro l'interesse commerciale, perché ovviamente quelli che non la pensavano di sinistra in negozio non venivano, ma ce ne fregavamo, cioè gli aspetti ideali erano superiori agli interessi commerciali. Fatto sta che uno di questi, Ernesto De Santis, che era un calabrese, era il direttore della RAI, che si era fatta là, mi pare, in Piazza Mazzini, giù la sede di questa RAI, e un giorno, nel 54, quando io ho compiuto 16 anni, siccome li compivo d'estate, quindi durante il periodo che ero qua, mi portò in regalo un disco che lui aveva inciso per me, per farmi un regalo di compleanno. E nel disco era incisa una poesia di Trilussa, che a lui piaceva molto e che naturalmente io ho imparato a memoria e non ve la dico, ma sarebbe bella anche da dire. Detto ciò, quindi, torniamo, poi tutte le varie storie, Bolzano, per esempio il Giro d'Italia, eravamo la capitale del Giro d'Italia, perché il tappone dolomitico finiva a Bolzano, nel 49 Fausto Coppi al Passo Gardena, io l'ho visto, io ero tifoso di Bartali col cuore... però arriva prima fa Coppi e dopo 6 minuti arriva Bartali e poi dopo altri 6 minuti arriva un trio che c'era Bobè, c'era, e le strade non erano asfaltate. Noi eravamo andati a vedere lassù perché mio padre aveva la mano. No, scusa, ti devo sì, fermare. Andiamo nonostante il Giro d'Italia. Torniamo dopo, ecco, il Giro d'Italia. No, ecco, sì, purtroppo. Parliamo per favore degli anni 40, sì, perché allora, raccontare. stato molto bello allora, nel tuo libro. Giustamente Sabine mi richiama all'ordine, perché lei ha scritto un libro grosso così per il Museo Ebraico di Merano. Io ero presente quella sera, io e mia moglie, e lì c'è l'episodio che vuole che io racconti. L'episodio è fondamentale, però è molto importante, sì, certo, dal punto di vista appunto della solidarietà umana. Come vedete, le donne mi richiamano all'ordine. E l'ordine è questo: nel 1942 i ferrovieri, mio padre frequentava l'ambiente dei ferrovieri, anche se perché che era, aveva il dopolavoro ferroviario vicino a via Brennero, giù di là, andava là, bevevano le birre, giocavano a carte, giocavano a bocce, perché poi mio padre era un tipo estroso, teneva a bada gli altri. E a un certo momento i socialisti, i ferrovieri socialisti, avevano creato una catena di aiuto per gli ebrei in fuga. Questa catena di aiuto consisteva nel fatto che al Brennero delle coppie, generalmente io me le ricordo visivamente, marito e moglie di una certa età, vestiti con dei cappottoni, con delle grandi valigie, me li ricordo perché la prima tappa del loro viaggio dal Brennero era Bolzano ed era casa nostra. Quindi mia madre si vestiva, come la vedete lì, con tutta bella elegante, col cappello, eccetera, prendeva in braccio la mia sorellina che aveva 2 anni e prendeva me per mano che ne avevo 5 e andavamo in stazione. Quando il capotreno indicava a mia madre la coppia che doveva essere aiutata, lei si gettava su di loro come fossero parenti venuti da lontano, baci, abbracci, la bambina la sbatteva in braccio alla signora e poi via chiacchierando. Uscivamo dalla stazione e venivano a casa nostra in via Carettai numero 10, dove restavano 2-3 giorni chiusi perché non ci fosse qualcuno che li vedesse. E avevamo organizzato nel corridoio 2 letti così di fortuna e venivano tenuti lì finché arrivava l'ordine di riportarli in stazione e partivano da Bolzano protetti dal capotreno che faceva parte di questa catena di solidarietà, il quale li metteva nel suo scompartimento per evitare contatti possibili con la polizia ferroviaria. Questo è. A Verona accadeva che un'altra famiglia tipo la nostra li accoglieva, poi da Verona andavano a Torino e da Torino venivano affidati ai partigiani che li portavano in Francia, a Marsiglia, li facevano partire per il Sud America. E questa è una cosa quasi incredibile. Negli anni 75, così, dopo tanti anni, mio padre era a Torino da mia sorella, ospite di mia sorella. Naturalmente c'era il Festival dell'Unità e quindi alla sera si andava al festival. E lì, per caso, ha conosciuto la persona di Torino che faceva parte di questa catena. Quindi noi eravamo i primi a Bolzano e quella era l'ultima a Torino della catena. E con questo ho finito. Grazie. Il discorso. No, adesso devo dire qualcosa anch'io. Ho finito questo discorso, ma c'era anche l'altro. Cioè? Che non solo voi accoglievate queste famiglie ebree e poi le portavate a Verona. Scusa. E le portavate poi insomma, a Verona, ma c'era anche il percorso inverso. Cioè suo padre andava al Brennero. Questo no? Dopo. Dopo, no, sì. Non al Brennero. C'erano dei treni che portavano i soldati italiani che non avevano accettato di andare col fascismo e li portavano in Germania, in campi di lavoro, non nei lager, mi pare che fosse così. E naturalmente qualcuno era, insomma, non era tanto contento di andare. Allora avevano organizzato sempre quei ferrovieri di rallentare il treno in salita dalle parti di Vipiteno dove c'è una curva che erano costretti i treni a rallentare, ma naturalmente il macchinista rallentava molto e mio padre e altri con due o tre macchine li aspettavano nella, sotto la massicciata e dicevano buttati, buttati e li raccattavano e poi li riportavano indietro a Bolzano da dove ognuno si sarebbe arrangiato o tornare verso casa o insomma o andare a fare il partigiano così. Quindi anche in senso opposto, giusto? Sì, sì, questo è. Posso solo aggiungere un'altra cosa ancora per noi interessante? No, mio padre, attenzione, siccome cadendo molti si slogavano un polso, una caviglia o si picchiavano così, naturalmente da uomo pratico si era organizzato, aveva una piccola farmacia dietro con bende, con alcol e li medicava lì per lì. Quindi ecco, per dire che tipi eravamo. Grazie. E volevo solo dire che questo libro ho scritto assieme a Joachim Innerhof, non era solo il mio lavoro, abbiamo fatto assieme in tedesco e in italiano Quando la patria uccide. E qua c'è anche la famiglia Carpi, raccontiamo sì. Che è stata la prima famiglia deportata dall'Italia nel 43. E lei ha conosciuto questa famiglia, i no? I miei genitori li conoscevano, sì. Sì, ci può raccontare un po' del negozio in via Leonardo numero 20? Mio padre aveva rapporti con la comunità ebraica perché, come ho detto, il primo ad aiutarlo fu un ebreo, Cerami, che aveva questo laboratorio in via Argentiere all'inizio a sinistra e praticamente vendeva di tutto perché aveva un magazzino tipico con dentro di tutto e aveva tre donne, io questo l'ho visto nel dopoguerra, che confezionavano camicie a scacchi, bretelle e rucksack, sacchi da montagna per i contadini. Questo ebreo conobbe mio padre giovane per poco dopo che era arrivato e gli forniva della roba da vendere e mio padre faceva il vucumprà. Praticamente con la valigia piena di merce andava nei ristoranti, nei bar, apriva la valigia, cercava di vendere così. Questo prima di conoscere mia madre, e mia madre l'ha messo l'ha inquadrato, l'ha messo in riga. E della famiglia Carpi, del negozio è entrato? No, noi sapevamo, io so come ricordo che i Carpi avevano un negozio in via Leonardo da Vinci. E poi noi conoscevamo diversi altri con cui mio padre per ragioni di lavoro aveva avuto rapporti. Naturalmente avendo simpatie antifasciste era spontaneo cercare di aiutare, di dare una mano. Questo eravamo una famiglia di gente per bene. Grazie, grazie. E volevo solo dire che noi abbiamo fatto questo libro solo con l'aiuto di testimoni, abbiamo avuto 13 testimoni diretti e uno di questi 13 era Cesare Finzi, sì, un nostro conoscente, attraverso Cesare ho conosciuto Attilio. Mio amico, diventato mio amico, lui era di Faenza, tramite un ebreo mio cliente di quadri, perché io avevo la galleria d'arte e vendevo quadri, e, sì, quindi io avevo la galleria a Milano in via Brera. Vendevo quadri del Novecento italiano, adesso per fare qualche grosso nome, diciamo De Chirico, Campigli, Tozzi, via dicendo. Anche altri minori che costavano solo 5-6 milioni, perché quegli altri costavano 70-80 milioni. E poi ho conosciuto questo cliente ebreo, al quale ho fatto la collezione in casa, non aveva niente ma era appassionato, era ricchissimo, aveva di tutto, mobili antichi, tappeti, ma i quadri no. Una sera viene a Milano Marittima dove io avevo la galleria, ci conosciamo, cominciamo con una piccola odalisca di cantatore da 3 milioni, siamo arrivati a Chagall attraverso De Chirico, Tozzi, Severini, cioè tutti i pittori del Novecento italiano. Questo signore ebreo un bel giorno mi dà l'incarico di fare un monumento in Israele. E questa è tutta un'altra storia. Grazie. Lì non c'è niente. Noi abbiamo avuto, Cesare Finzi è venuto tanti anni in Alto Adige, ha incontrato tante, tante classi per dare testimonianza, era veramente, assieme a Lionello Bertoldi e Arnaldo Lono, venivano chiamato loro tre, i tre moschettieri della memoria, che sono veramente per tanti anni andati qua a parlare con i giovani. E è mancato in agosto del 2023 Cesare Finzi, e però anche lui ha scritto due libri, voglio solo dire questo punto, uno molto, che ha avuto grande successo, Il giorno che cambiò la mia vita, che fa proprio riferenza sulla famiglia Carpi deportata da Bolzano, i suoi cugini, che era il motivo per lui e la sua famiglia, il papà e la mamma, di scappare subito da Ferrara. E praticamente questa fuga immediata da Ferrara ha anche salvato la vita di Cesare Finzi. E questo libro si può anche ottenere, è molto adatto anche per leggerlo alle scuole. Sì, molto interessante, sì. Quel libro, perché racconta tutta la loro storia. Io con Finzi sono andato 3-4 volte nei licei durante i giorni della memoria, perché lui raccontava tutta la sua vicenda e io poi raccontavo queste robe che vi ho già detto. Okay. Grazie. Posso solo dire che in un'intervista che abbiamo fatto anche lui dice del suo insegnante Giorgio Bassani nella scuola ebraica, perché veniva cacciato fuori dalla scuola pubblica, ha dovuto frequentare una scuola ebraica, l'insegnante era Giorgio Bassani e lui dice che lui era il suo mentore, ha aiutato a trovare l'umore, un buon stato d'anima, con scherzi, come insegnante, è stato veramente molto bravo a praticamente alzare l'umore di questi piccoli scolari. Stati cacciati via dalle scuole. E adesso volevo e fare avevano collegare. Fatto una scuola, sì, lì a Ferrara per gli ebrei, esatto, avevano raccolto. E volevo collegare alla tua prima esperienza scolastica, Attilio, anche tu avevi un insegnante? No, che è riuscita ad alzare il vostro umore? Ma adesso, io avevo tutti insegnanti ex fascisti, perché nel 48, 49, fino al 52, addirittura il preside, lo Presti, era un fascistone proprio di prim'ordine, ancora nostalgico, perché la maggior parte delle persone che facevano parte delle cose pubbliche erano ex fascisti, c'è niente da fare. Però a Galeata? No, a Galeata il discorso è diverso, eravamo bambini piccoli, avremmo dovuto fare la prima, la seconda elementare, andavamo a casa di una maestrina che ci aveva preso, per quello quando sono arrivato a Bolzano avevo 8 anni e mi hanno detto scrivi mamma, dice terza elementare, perché avevo imparato durante la guerra qualche lezione così, e anche lì ovviamente parliamo sempre di gente antifascista, perché mio padre era comandante partigiano. Poi nel libro c'è anche un racconto terribile di cui sono stato testimone, avevo 7 anni, che in casa sono entrati un ufficiale tedesco con la pistola così, e due fascisti dietro, uno di qua e uno di là col fucile, perché cercavano mio padre. Perché mio padre era venuto giù di nascosto dalla montagna, perché era morto un altro fratellino, che lì non c'è, ma nel libro c'è, e allora voleva sapere cosa era successo, perché le brutte notizie viaggiano. Lui in montagna era stato raggiunto dalla notizia che l'ultimo figlio, il più piccolo, Federico, era morto, e non sapeva come, perché l'avevamo seppellito 4 giorni prima. Venendo giù così di nascosto, lo vede un fascista, che è naturalmente un delatore, la razza dei delatori dopo i tempi di Cristo è sempre stata viva e florida, andò al comando e disse che aveva visto mio padre. Mio padre era noto come partigiano, quindi sono arrivati nella casa dei nonni, hanno buttato giù la porta, a calci e a colpi di calcio di fucile, e sono entrati. Eravamo mia nonna, io, la mia sorellina e mia mamma. Mia mamma era distrutta dal dolore, perché 4 giorni prima avevamo seppellito Federico. Guardate, lasciamo perdere. Ma a quel punto aveva anche una sorta di esaurimento nervoso, per quello eravamo andati a casa dei nonni. Morale della favola, l'ufficiale tedesco entra con la pistola così e si capisce che cercava mio padre era nell'altra stanza con mio nonno e l'altro mio fratello. Io avevo 7 anni, la nonna di fronte a questa cosa mi tiene attaccato alla sottana così, dall'altra parte tiene la mia sorellina, mia madre si sveglia dal suo torpore, salta davanti all'ufficiale tedesco con le tette contro la pistola e dice «Was wollen Sie?». Questo si è fermato inchiodato, non aspettava che a Galeate in Romagna ci fosse una persona che parlasse in tedesco, che dicesse «Was wollen Sie?», cosa vuole lei? Questo si è fermato, ha abbassato, io ho seguito tutta la scena, che ce l'ho qui, e praticamente mia madre ha tirato per le lunghe dicendo «Ich bin, io sono una cittadina del Sud Tirolo, di Bolzano, mi trovo qui perché per i miei vecchi genitori, diese ist meine Mutter», indicando la nonna. E quindi tutta una scena, potete immaginare, da film, è durata un minuto e mezzo, 2 minuti, non lo so, ma certamente ha bloccato. Io vedevo con l'occhio i due fascisti che premevano ma non osavano passare davanti all'ufficiale tedesco che comandava, che era lui. E quando l'ufficiale, quasi con un gesto di cortesia, ha detto una parola chiedendo a mia madre di spostarsi e poi ha rialzato la pistola, che nel frattempo l'aveva abbassata, ed entrano nell'altra stanza. Io li seguo. E mio padre non c'era più, era sparito, se l'avessero trovato. E cercano dentro l'armadio, aprono le finestre che davano sull'orto e non lo trovano. A quel punto tutti incavolati, tornano indietro, vanno su nelle soffitte e dopo un quarto d'ora se ne sono andati. In quel minuto e mezzo che mia madre aveva fermato il tedesco dicendo «Was wollen Sie?», praticamente mio nonno aveva nascosto mio padre. Avevamo un armadio piccolo che nascondeva una porticina che portava di sotto in una cantina, dove tra l'altro c'era mio zio renitente alla leva di Salò, quindi, che stava lì da 40 giorni. Perciò ha salvato il marito, che poi durante la notte è ritornato su in montagna. Questa è la storia. E poi quel famoso delatore è finito Bolzano anche lui, no? Sì, ecco. Era un professore di lettere. Dopo, sì. Adesso non mi ricordo il nome. E comunque sì. Quindi vedete che tipo di storia e che insomma anche... Io chiuderei, visto siamo già più di un'ora iniziale, però ho alcune cose interessanti per quanto riguarda, vorrei ancora che ce le raccontasse, del negozio. Il negozio Bazar, vengono... Nel testo nata la storia di alcuni personaggi particolari, dai Kramer, dalla Polacca, sì. Alcuni personaggi poi a me sono venuti in mente leggendo il libro, perché non ne ricordo, ecco, che erano, sì, particolari, no? E nostro... forse questo è carino, perché forse anche qualcuno di voi si ricorda di questi personaggi. Il nostro negozio era un porto di mare dove venivano un po' tutti, ovviamente parliamo dell'immediato dopoguerra, tra cui persone sbandate che dalla guerra, così. Una di queste era questa signora, donna polacca, alta, di bellezza antica, che era stata massacrata fisicamente in tutti i sensi, e arrivava sempre con la pancia, era sempre incinta. Ma lì, leggetevi il libro, che è più bello. Detto questo, noi invece eravamo il punto di partenza dei Cromer. I Cromer erano dei venditori ambulanti che venivano dalla Valsugana, che avevano avuto una licenza speciale da Cecco Beppe alla fine dell'Ottocento per andare a fare i venditori porta a porta, e andavano nei masi dove non arrivavano le strade, perché adesso... parliamo di un Alto Adige che ormai, per carità, non lo posso più vedere da tanto, che fra funivie, stradoni, eccetera. Allora era diverso. Questi qui avevano la cassetta sulle spalle, che era un mini negozio, e in più due valigie, l'ombrello, eccetera. E facevano il punto di partenza a Bolzano, caricavano la merce, andavano, poi quando tornavano pagavano, e mio padre come premio tutte le volte gli offriva un quartino di vino rosso da Gramegna, che era l'osteria più vicina al negozio, lì a 20 metri. Quindi dico, quello era un cliente, la polacca era un cliente, la regina degli zingari veniva a comprare i pizzi, che poi vendeva fingendo che fossero pizzi fatti dai suoi colleghi. La regina degli zingari aveva il campo a Oltrisarco, vicino al cimitero, e lì raccoglieva i rom che dispersi che tornavano. Faceva questo lavoro, pensate, e l'avreste dovuta vedere. Era una signora di una cinquantina d'anni, ma una bella donna, alta, che fumava con un bocchino di così proprio la sigaretta, con aria da gran signora, piena di gioielli, ed era sempre circondata di 5-6 piccoletti che erano quelli che chiedevano l'elemosina in piazza, davanti alle chiese, eccetera. Allora tirava fuori un fazzoletto con tutte le elemosine, un fazzoletto puzzolente pieno di monetine, e io e mia sorella dovevamo contare tutte le monetine, e in base alla 5 lire, 10 lire, 2 lire, perché all'epoca anche quelle, e alla fine lei comprava, diceva a mia madre, dammi pizzi grandi, alti, e comprava in proporzione. Poi usciva sempre con quest'aria da gran signora. Questo è un personaggio che mi è rimasto in mente, ma vero, reale. Vabbè, se vi racconto tutto il libro, dopo nessuno lo compra più. No, volevo, forse ci sono curiosità del pubblico, direi, forse, ci sono domande, io aprirei al pubblico un po'. Al massimo ci sarà Apuzzo, che, con cui abbiamo fatto la quinta elementare, l'esame d'ammissione in quinta elementare, è arrivato prima, adesso forse se n'è andato. No, è qui. Ah, è qui. Allora, scrivi il secchione, praticamente primo della classe. No, tu eri il migliore, eri il numero uno. E allora, studiava da mesi sotto l'occhio inflessibile della madre, che lo chiudeva in casa il pomeriggio. Questo libro sarebbe lui, Abitavano in via Leonardo da Vinci, vero? Lì, in quel bel palazzo in via Leonardo da Vinci abitavate. Era via Duca d'Aosta, non via ospedale. No. Ah beh, sì, d'accordo, via verso l'ospedale. E tu venivi a casa mia, mi ricordo. No, quella fu una furbata, perché io non volevo fare l'esame d'ammissione, non volevo proseguire gli studi. Ma si vede, adesso lo dico, prendetela come una battuta, che ero così intelligente che il preside, lo presti, fascistone, telefona a mio padre e dice: ho visto che suo figlio non si presenta all'esame d'ammissione alle medie. E mio padre, poveretto, gli dice: deve presentarsi, perché è un ragazzo che deve continuare a studiare. Ero io, figuratevi. A quel punto mancava un mese, c'era gente come lui che era 4 mesi che preparava l'esame. E allora dico, ma pensa un po', dico ad Apuzzo se vado da lui al pomeriggio e studiamo insieme, così imparo, no? E così ho fatto. Sei diventato bravissimo anche tu, no? Sì, abbiamo preso gli stessi voti, 4-8. Siamo stati i due migliori all'esame. Abbiamo preso 8 in matematica, in italiano, in storia, non so, erano 4 materie. E però la cosa che ricordo con maggior piacere è che sua madre, che era una donna bellissima, un'attrice del film dei Telefoni Bianchi, bellissima, elegante, eccetera, e non capivo perché si era sposata col padre, che era un napoletano un po', comunque dico, era una donna bellissima, non solo, ci seguiva, e poi ci portava delle merende straordinarie, e quindi chiaramente sono andato per un mese, ho fatto il corso di recupero. Ci sarebbe Ettore Frangipane? Sì. Voleva la parola, vero? No, posso dire anche l'acqua. Questo qui, grazie. Non si tratta di microfono. Molto. Volevo solo dire che io sono sicuramente la persona più anziana qua. Di che classe sei? Ah, io del 38. Quindi, le do una stecca di quattro puntate, guarda. E sono nato e vissuto in quel palazzo che lei definisce tale di Leonardo da Vinci al numero 20, dove c'era la famiglia Carpi, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono stato un gran fascista perché sono stato figlio della Lupa, poi sono stato Balilla. Non sono riuscito a diventare avanguardista perché è arrivato l'8 settembre, tutte le cose, anzi il 25 luglio. Il 25 luglio del 43. Io ho apprezzato molto la sua chiacchierata, l'ho trovata in forma. Lei ha parlato di persone che ho conosciuto anch'io praticamente, no? Sì. Il preside Lopresti, per esempio, il figlio di Lopresti, era preside del convitto Damiano Chiesa, benissimo. E tutte queste cose qua. Ecco, lei mi ha fatto rivivere un po' di miei lontani anni. Se tutto permetti qua. Ti do del tu, visto diamoci che siamo coetanei. Sì, sì, allora, sì. Per tua consolazione ti dirò che all'asilo, avevo 4 anni, quando vedevo quelli vestiti con i calzoncini corti, le bretelline dei figli della Lupa, io li invidiavo perché dicevo guarda come sono, e invece io ero vestito normalmente. No, ma ti dirò una cosa, che quei pantaloncini grigio-verde pizzicavano. Ah, allora mi è andata bene. Pessima fattura. Quindi mi è andata bene. Le calze bene. Di pessima fattura, calzettoni verdi con la striscetta sì, nera. Sì, davanti. Sì, ma io me ne ricordo, avevo 4-5 anni. Ma figurati che avevamo i polpacci coperti, ma non il piede, perché in fondo a questa polpacciera, definiamola così, c'era un elastico che passava sotto il piede, teneva giù il... e si andava... Sì, senza, sì. Erano cose rimediatissime. La usava anche il Duce. Speriamo che non tornino più quei tempi, anche se adesso siamo un po' messi male. Vabbè, lasciamo perdere, non buttiamo le politiche. Vengo. Ah, signore. Grazie. Grazie. Ci sono altri belle domande. Conoscenze che faccio. Qui. Forse possiamo chiedere adesso del tuo impegno politico, possiamo... Ma il mio sì, è stato... Troppo, chiesto troppo. Mi volevano mandare a scuola di partito a Mosca, per fortuna avevo conosciuto la ragazza, la fidanzata che è diventata mia moglie, è un colpo di fulmine che dura tuttora dopo 60 anni e quindi non sono andato, è stata una gran fortuna, sennò diventavo un apparatic. Almeno l'ultima cosa forse, allora lui... da appunto comunista, da parato quasi com'è, ha dovuto sposarsi in chiesa. Ecco, forse questo è un aneddoto che merita, anche se nel libro è scritto molto bene, ma forse una battuta anche su questo. Cioè, allora, la famiglia di mia moglie, della mia fidanzata, era religiosissima. Naturalmente, i primi tempi vedeva di malocchio uno che arrivava in casa con l'Unità, l'Espresso, insomma tutti i giornali, che non quagliavano molto con la religione. Poi naturalmente è diventata invece la mia seconda famiglia, la mamma di mia moglie è diventata la mia seconda madre, specialmente dopo la morte della mia. E comunque a un certo punto loro volevano ad ogni costo, per tradizione, fare il matrimonio in chiesa. Io invece avrei voluto farlo in comune, una cosa semplice. Ma a quel punto tutti i preparativi, corredo, un bel giorno avevano scelto il prete che doveva officiare la chiesa di Polenta, insomma tutto era organizzato, salta fuori che io dovevo fare l'esame d'ammissione e quindi andare dal prete della parrocchia di Montecchio, dove avevo l'abitazione, e fare una dichiarazione, eccetera, eccetera. Vi racconto, tenete presente che io con quel prete l'avevo trattato male 2 anni prima, perché era venuto, era un giovane e faceva l'inventario dei suoi parrocchiani e quando arriva a me gli dico: guardi, a me non mi scriva, io non sono cittadino dello Stato Vaticano, mi cancelli, non mi consideri, la saluto, e l'ho cacciato via in malo modo. Pensate che dopo 2 anni sono dovuto andare da lui per chiedere il permesso, l'autorizzazione per sposarmi in chiesa. Naturalmente quando mi ha visto, ci siamo seduti a un tavolo così, ha incominciato a scrivere nome, cognome, indirizzo, gliele ho dati quella volta lì perché dovevo darglieli, religione, ateo. E cosa vuole sposarsi in chiesa? Insomma, immaginate la scena, è andata avanti così finché lui ha detto che non poteva autorizzarmi. Al che io dico: scusi, lei non mi può autorizzare, però ci sarà qualcuno, un'autorità sopra di lei che può farlo? E lui mi risponde: ci sarebbe il vescovo, ma neanche parlarne perché è anziano, è tradizionalista, coi comunisti non vuole avere rapporti. E io dico: senta, mi faccia una cortesia, faccia la domanda per un incontro col vescovo. Avevo coraggio, era l'amore che mi spingeva. E quindi arriva l'incontro col vescovo, vado al palazzo del vescovo a Forlì e già mi aspettavano, già la portineria, sapevano che io ero il comunista, un caso. Arriva il segretario del vescovo, un pretino tutto azzimato, fa: mi raccomando, stia 2 metri di distanza. E poi dica al signor vescovo, dico: non si preoccupi, mi ero anche vestito bene, mi ero messo la cravatta. Arrivo in questo salone enorme, guardavo così, a un certo punto arriva il vescovo, che era un vecchietto, tutto vestito da vescovo, tutto in rosso, così, cioè una cosa seria. E io stavo lì al centro e lui mi girava intorno e mi guardava come il matador che guarda il toro prima di infilarlo nell'arena. Capito? E quindi a un certo punto si avvicina lui e dice: ma mi ha detto il prete di Montecchio, mi ha spiegato tutto, ma perché ti vuoi sposare in chiesa? Ma dico: eminenza, perché dovevo chiamare eminenza, e ho spiegato le ragioni familiari della mia futura sposa. E lui fa: vabbè, vieni qui, sediamoci. E si siede su una panca, mi fa sedere sull'altra e dice: ma spiegami tu che come la pensi, perché sei arrivato a queste conclusioni, eccetera. E io ho imbastito lì un discorsetto dicendo che ero sul piano filosofico vicino a Kant, a me interessava appunto un cielo stellato sopra di me, la legge morale, e gli dico: guardi che io sono in difficoltà perché non ce l'ho un prete con cui confessare i miei peccati, sono io il confessore di me stesso, quindi lo so quando commetto un errore, quando sbaglio, quindi sono in una posizione difficile, eminenza. E lui mi guardava, sorrideva così, piano piano. A un certo punto fa: ho capito che sei un bravo ragazzo, ti do il permesso. E dice: vai fra una settimana dal prete di Montecchio a ritirare l'autorizzazione. E così è andato. Dopo mi sono sposato in chiesa. Vabbè, questo è folklore. Sono un bel folklore. Vabbè. Bene, ci sono ancora domande? No, spero di no. Possiamo andare verso la conclusione allora? Allora, ringraziamo naturalmente Attilio Lamarchi per questo pomeriggio molto piacevole, questo, diciamo, tuffo nella Bolzano del passato, Bolzano inedita ovviamente del passato. Ringraziamo voi per la presenza. Per la pazienza. E alla prossima. Insomma. Bene.